amore, dove sei stato? Sei nel presente o nel passato? Sei tutto intero o sei ferito? E quante volte mi hai tradito? Solo le lacrime che fanno male quando mi stringi sul tuo cuore. Sono due lacrime che ci dividono quando mi prendi e gridi amore. Mi dico amore, dove sei stato? Sei come un angelo smarrito. Chi ti ha spezzato? Chi ti ha colpito? Se questa notte chiedi aiuto, è ritornato il tempo di stare ancora insieme. La notte passerà e non avrò paura di restare qui come ogni notte ad aspettare. Stare ancora.